This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Yeah. Buonasera a tutti, siamo in diretta ancora con Living Color, This Is Not An Exit. Benvenuti a tutti, tutti i nostri ascoltatori, ma anche il dottor Scarpa, dottor Corrias e anche Don Matteo, che è qua con noi stavolta, non è in giro per l'Europa, ma ci racconterà dei suoi trascorsi spazio-temporali. Esatto. Beh, insomma, avete sentito qualcosa che magari riconoscete, magari no. Beh, insomma, primi anni 90 escono fuori, no, anzi 88, sì, per la precisione 88, primo disco dei Living Color da New York, appunto, Vivid, e insomma, fu una bella sorpresa, no? Perché ascoltava hard rock, metal, prettamente da gruppi di bianchi, invece loro tutti di colore, che insomma riprendevano un po' la scuola di Bad Brains e Africa Bambaataa. Cioè mischiare un po' di funky nel heavy metal, cosa che si era sentita molto raramente. We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. The cult of personality. The cult of personality. We'll be right back. Eh beh sì, stiamo parlando dei Living Color, se non l'avete capito. E per me, per quanto mi riguarda, parlando dell'iperpersonale, qua si va proprio alle cassettine. Eh sì, 1988, ero proprio piccolino, ma nel 90 usciva il secondo loro disco ed era comunque una bomba. Vedere quattro negri, perché allora così li chiamavamo e così era uso definirli, soprattutto a New York, ed è uno dei motivi per cui si sono anche formati, hanno formato tante altre cose. Vedere quattro neri vestiti da crossisti, perché Vernon Reid, il chitarrista, si vestiva con tute stivali da motocross sul palco, era una bomba, c'è poco da fare. In più la musica che gli veniva a dietro, perché erano gli anni di esplosione del crossover, ma erano tutti gruppi di bianchi, i più famosi, Red Hot Chili Peppers e poi Faith No More. Avevano avuto una esplosione notevole proprio verso la fine degli anni 80, tutti in questi anni, 88-89, ed erano gli anni d'oro per questo genere. Bene, arrivano questi ragazzi, anche più tecnici, ancora più bravi, dei già bravissimi Red Hot, Faith No More, Jane's Addiction, e ce ne erano tantissimi, che fondano questo gruppo anche e soprattutto con l'intento di rifarsi, in tutti i modi. Noi siamo bravi almeno quanto voi, anzi siamo più bravi di voi a fare la vostra stessa cosa, ci riappropriamo di un genere che non può essere solo vostro, perché il rock and roll è nato anche e soprattutto da basi nere. Siamo ancora qua dal vivo con i Living Color, non so appunto quanti di voi li conoscessero, ma erano molto molto molto famosi in questo 88. Però vabbè, quanti ricordi, io sono tornato indietro, c'è un ragazzino, ero lì che mi divertivo e ascoltavo i Living Color, senza pensieri e nulla di che. Sì, perché fecero il botto anche su Video Music, allora c'era Video Music. E soprattutto erano coloro che per i più, come dire, dentro alcune robine un pochino più underground del solito tenevano testa all'unico gruppo, tra virgolette, crossover, nel vero senso della parola, che ovviamente in pochissimi di voi penso conoscano, che erano i Mordred, che in maniera, come dire, molto sottile furono accomunati al filone thrash metal, ma che con il thrash metal non c'entravano praticamente nulla. La versione dei Living Colors con il chitarre thrash metal. Senza la epic dietro però. Regolare. Perché i Living Colors ebbero da subito un ottimo successo grazie al fatto che li scoprì Mick Jagger, e se ti porta Mick Jagger alla Epic, come dire, è un po' come quando David Bowie portò i Devo alla Warner Brothers. Però dalla loro ci fu anche un'altra bella cosina che fecero, non so se volontariamente o meno, utilizzarono un loro pezzo per un videogioco abbastanza famoso, e questo penso che tra i più piccoli abbia dato ancora più, come dire, luci sul loro nome e il loro modo di fare. Se non sbaglio è un gioco di emulazione di chitarra, e se non sbaglio il loro brano scelto è uno dei brani che loro rifecero per il videogioco, con lo slego, con l'assolo di chitarra più difficile di tutto il gioco. Sì, e non solo, oltre che del disco, ma ancora prima ne fecero un'altra per un altro gioco, se non sbaglio, di simulazione macchine o qualcosa del genere. Quindi ho capito a cosa ti riferisci, che per mia scelta non voglio dire il nome. Ci devono pagare per fare pubblicità. Bravo. Don't want to be can tear a building down, but you can't erase a memory. These houses may look worn down, but they have a value you can't see. Crack and blow the lies away. Now you can tear a building. Beh, parlavamo di negri non a caso prima, non voglio dirlo in maniera provocatoria, erano loro stessi che si giocavano sopra, perché c'è poco da fare, in questo 1988 il rock non era proprio un luogo dalle pari opportunità, come si dice adesso, anzi forse pari opportunità non esisteva proprio come concetto. Era un mondo sostanzialmente diviso, facevi pop o rhythm and blues o jazz, eri un nero. Se facevi metal, no way, non c'era verso, erano quasi tutti bianchi, salvo rare eccezioni. Sto parlando soprattutto del mainstream, poi l'underground era tutta un'altra cosa. Bene, i Living Color vollero a modo loro spingersi nel mainstream e ebbero anche un ottimo successo, pur essendo quattro neri, c'è poco da fare, ci riuscirono, erano bravissimi tecnicamente, nessuno poteva dirgli niente, e facevano tantissime cose come facevano altri gruppi del periodo, anche meglio. I brani erano molto belli, orecchiabili e tecnici, e insomma tutto era sì, un gioco tra il crossover del loro travestitismo colorato alla musica che facevano, che comunque era anche nera di base, c'era molto funky. Beh, sicuramente l'attributo, insomma, possiamo attribuire la grandezza del gruppo a Vernon Reid, gran chitarrista che praticamente era uno dei pochi a fondere jazz e trash, perché lui veniva da una scuola, insomma, che aveva fatto un conservatorio, che aveva imparato anche a suonare la chitarra jazz. E tra l'altro i pezzi sono, cioè, riusciva a comporre anche pezzi con teatrali quasi, no? Delle progressioni metal, insomma, sofisticati fraseggi anche bebop, perché comunque lui la scuola era quella. E poi, tra le altre cose, nelle interviste che molte volte li facevano, ma da quant'è che suonate hard rock? Ah, perché insomma, come se un ragazzo di colore non potesse suonare quello, no? Potesse soltanto fare le cose dei neri, insomma, jazz, bebop appunto, e non l'hard rock. Però loro appunto venivano un po' anche dalla scuola dei Bad Brains, che avevano rotto questa insomma, monocolore dei bianchi che facevano sempre hardcore. Anche loro potevano farlo. Per non parlare del motocross. We'll be right back. that's no good. Listen, I have something you guys would really like to hear. It's Living Color. And I've got 10 seconds to tell you that. I interviewed them last time they're here, and I asked them about the movement they started, which is called the Black Rock Coalition, and I did it, and now here it is. Perfect timing. È strano farsi trovare qui a intervistare Living Color dopo che il Melody Maker li aveva, come dire, stroncati. Beh sì, Melody Maker che mandava addirittura il buon Simon Reynolds a intervistarli e li stroncò così. Poi ebbe modo di reintervistarli e disse: ah, perché Melody Maker ci manda della gente? Strano che ci mandi della gente e poi ci stronca pure. Ah, dice, ma ero io, gran figura di M da parte di Simon Reynolds con Living Color. Per fortuna che sono non sono come Bad Brains, sono molto più tranquilli e hanno ironizzato sulla situazione, quindi non hanno preso a calcio il buon Simon Reynolds. Forse ci sarebbe dispiaciuto un po', dai. Ma sì, alla fine era un bravo ragazzo. Beh, ma cosa ci raccontavano i Living Color? Perché poi raccontava su Black Rock Coalition, che era la loro lega che avevano fondato per la promozione del rock nero. Sì, fatto da gruppi di neri, diciamo, più che rock nero. Beh, certo, insomma, a parte insomma, l'aspetto musicale, anche i testi un po' si rifacevano a quello che dicevano Africa Bambaataa, Zulu Nation, no? la Black Power, per quanto riguarda insomma, sempre le tematiche sono sempre quelle, insomma, della schiavitù e di quello che, insomma, che bisogna fare nei ghetti neri e di alzare la testa, perché a loro dava molto fastidio quando le persone dicevano: guarda, io non ho tempo per pensare a certe tematiche perché c'è un sacco di roba da fare. Dice: però quelle cose lì, se poi non le pensi, alla fine finisci che ti inghiottiscono, e quindi insomma fai la fine che poi molti purtroppo fanno in certi ghetti, ecco. Yo Corey, man. Yeah man, what's up? I saw Elvis the other day. Get out of here, man. From the grave. Elvis is dead. Elvis is dead. Elvis is dead. Elvis is dead. Presley was a good performer on stage. It was electrifying. When he was ill, his fans got sick and moaned when he had died. Elvis is dead. Elvis is begraven. To all you pimps making money on his name, how do you speak? Don't you feel a shame? He went through the test, he's out of this mess. Be my guest and let him rest. Elvis is dead. Elvis está muerto. Elvis has left the building. Listen up. Hey, I got a reason to believe we all won't be frustrated by the people's lying, but I keep on trying. I've got the solace of you. When I can't think straight and there's no escape, I've got the solace of you. The beginning, 'cause that's where my heart is. Gotta go inside, back where it started. Back to the beginning, 'cause that's where my heart is. They can hurt me, jail my body. I'll still be free. They can take my land, tell me I'm not who I am. I've got the solace of you. A wise man said to know thyself, 'cause in the end there's no one else. Just the solace of you. Sono sempre Living Color, sono molto ammorbiditi. Che dire, non è che facessero solo metal e funk, erano veramente bravi, ce lo dimostravano ad ogni piede spinto, come potevano, in tutti i modi. Se avete qualche ricordo, se li avete visti dal vivo, non l'abbiamo detto, 348-7649-289 per mandarci sms. Ricordo, 348-7649-289, potete dirci vostre impressioni. Dal vivo erano molto, molto, molto bravi e potenti. Magari anche troppo controllati, forse questo era il loro limite. Erano talmente bravi, volevano far vedere, e dovevano per davvero, e volevano dimostrare di essere più bravi dei loro corrispettivi bianchi, che potevano risultare un po' leccati, quasi come dei musicisti jazz che facevano hard rock. E questo era una cosa anche abbastanza nuova per l'epoca, però forse ad alcuni faceva un po' storcere il naso. Forse era l'unico difetto che i Living Color avevano, perché il resto asfaltavano più o meno tutti quanti. E se nei primi due dischi erano anche abbastanza orecchiabili, poi le cose cambiarono con l'evoluzione. Beh, sicuramente qualcuno diceva, ma forse hanno ascoltato troppo poco punk, forse, no? Perché magari uno che va a vedere Living Color e pensa che dei fattoni piuttosto che invece dei belli leccati precisini sul palco. Ah, perché era tutto legato all'immaginario metal. Eh sì, è normale che uno, comunque a New York, penso che andava a vedere i Living Color, magari qualche anno prima aveva visto il punk nascere, no? Il post-punk, sì, però quindi poi, comunque c'è un'altra cosa da sottolineare. Come maggiore influenza dei Living Colors, loro citano spesso e volentieri King Crimson, quindi questo la lascia dire su influenze punk o meno, quindi era più controllo, tecnica esagerata ed esecuzione praticamente maniacale e perfetta, quindi diciamo così, poco all'estroversione, a quello spirito molto, come dire, stradaiolo tipico del punk o anche del metal. Sì, soldi spesi bene, insomma, le scuole di musica, quindi volevano confermare: papà, hai speso bene i tuoi soldi. Ed effettivamente ciò che rimane ai posteri è abbastanza tangibile, ecco. Ancora in compagnia dei Living Color, qualcosa l'avrete notato, è cambiato. Siamo ormai al terzo disco, siamo nel 93 e i suoni si sono fatti un po' cupi, un po' più speed metal. Sì, questo è il quarto disco, Stain, il disco dell'ascesa di catena, mentre prima le atmosfere erano più solari e i testi sempre venati di una parte molto sarcastica, c'era sempre la componente sarcastica e ironica, era sempre preponderante, mentre invece in Stain proprio lascia spazio al vuoto, al buio, all'oscurità. I testi sono molto tetri e in generale l'atmosfera cambia. È un disco molto cupo, chiuso in se stesso, pessimista. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato si intitola Go Away, letteralmente andatevene via, e il mood dell'album è più o meno questo. Molto più pessimismo e molto poche metafore. Quello che senti è quello che vogliono realmente dire. Forse è giusto che rimanga l'ultimo disco dei Living Color, perché di lì a poco si sarebbero sciolti. .29 minuti primi a This Is Not An Exit su Radio Città del Capo. 94.7 o 96.25 megacicli nell'area metropolitana di Bologna. Cari amici vicini e lontani, spero che ci sentiate bene, perché i Living Color meritano un buon ascolto. Esatto, anche se i temi trattati in questo disco che stiamo ascoltando, Stain, cambiano letteralmente rispetto ai dischi precedenti. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato si intitola Ignorance is Bliss, letteralmente beata ignoranza, e il testo si praticamente prosegue il discorso iniziato con il pezzo precedente. E vivere con me stesso è dura abbastanza, così me ne vado via quando le cose diventano pesanti. Fame, conflitti e pensieri di guerra importano meno dei vestiti che lei indossa, e così via. Insomma, avete capito com'è la mossa qui. Si sa dove si va a parare, praticamente. Esattamente. Forse non erano riusciti del tutto a lasciarsi alle spalle gli anni Ottanta. We must never take these words too seriously. Words are very important, but if we take them too seriously, we destroy everything. Chissà, forse anche il successo che li aveva un po' abbandonati li aveva portati a tematiche un po' più cupe, o viceversa, tematiche un po' più cupe li avevano portati a un minore successo. Devo dire che se i primi due LP avevano singoli molto potenti, molto facili anche per la heavy rotation di MTV, questo invece era forse uno dei loro unici singoli buoni per la video musica. Esatto, questo era Leave It Alone. I pezzi li stiamo sparando in sequenza, dal terzo pezzo da Stain, scelto come singolo apripista di Stain, appunto. E il pezzo si intitola Leave It Alone, letteralmente lascia perdere, lascia fare, e si apre con un campionamento che è molto importante, e che dice esattamente questo: non dobbiamo mai prendere queste parole troppo seriamente. Le parole sono molto importanti, ma se le prendiamo troppo seriamente distruggeremo qualsiasi cosa. Segue infamata rivolta praticamente al mondo intero. Io non sono parte di niente, no? Questo è il messaggio del pezzo. Io non sono parte di niente, lascio perdere, non faccio parte di nessuna scena, non pianifico di farne una carriera, semplicemente lascio perdere. E questo era il singolo. E il successivo singolo sarà ancora più tetro, perché si intitola Nothingness. Il ritornello dice Nothing lasts forever, cioè nulla dura per sempre. Come avrebbe potuto avere successo un disco così? E infatti, si è visto. Everybody wants you when you're by. Looking at the girls and eyeing all the guys. Everybody loves you when you're by. The tension and the passion's double amplified. The girls and laughing with the guys. Everybody loves you when you're by. But the tension and the passion's double amplified. Hold the door! Com'è che può pensare uno di odiare i neri se poi fanno una musica così bella? E poi addirittura fanno dei testi che criticano, prendono per il culo l'ipocrisia dell'immigrazione, come questo che si chiamava Auslander. Beh, la mentalità comune viaggiava su tutte altre frequenze, tutte altre onde, più o meno si accomunava, si uniformava a quello che diceva Spike, faceva dire Spike Lee a un suo personaggio nel film Fa la cosa giusta, in cui, parlando dei neri, li riassumeva così: cosce grosse, tutto sprint, nuoto un cazzo. Più o meno l'attitudine comune era questa. Esatto, era la fila del precotto, poi non ho mai capito a cosa servisse, ma comunque giusto a inventarsi qualcuno messo peggio, sì, di te, forse. Un bersaglio, qualcuno da un odiare. Un bersaglio facile. Beh, comunque Living Color, a modo loro, non so quanto se ne rendessero conto, hanno servito la causa. Non erano più gli anni dei movimenti per i diritti civili, non è che citassero apertamente Martin Luther King, però si facevano portabandiera comunque di un loro orgoglio, appunto un rimbalzo, il rovescio della medaglia di essere stati probabilmente umiliati per decenni, per generazioni e generazioni. Loro te lo sbattevano in faccia. Beh, tanto da guadagnarsi la stima di un noto gruppo politically correct come gli Anthrax, gli Analcant, anche, che dedicarono a loro un pezzo intitolato Living Color is my favorite black metal band, cioè i Living Color sono il mio gruppo black metal preferito, con il loro solito humor nero, appunto. Vabbè, siamo ormai ai saluti, 22-25 minuti primi qui a This Is Not An Exit. Buonanotte a tutti e ci riascoltiamo giovedì prossimo. Giovedì prossimo, sempre sui 94.7-96.250 di Radio Città del Capo. Questa è This Is Not An Exit. Dottor Corrias, mi raccomando. No, però volevo capire una roba, ragazzi. Cioè, che cosa vuole in pentola per giovedì prossimo? Beh, questa è una sorpresa, mica la possiamo noi facciamo sempre solo sorprese. Ma porca miseria, io ci provo e ogni volta mi rispondete sempre allo stesso modo. Stavo per rispondere, ma no. Dottor Scarpa ha fermato, ho capito. Il bello della sorpresa. Abbiamo delle regole, dopo tutto. Ok, buonanotte a tutti e a tutti, e grazie anche a Margherita per gli iscritti, grazie, grazie a tutti, bello. Grazie Don Matteo. Bella. This is the place I call my home.